Allora, possiamo iniziare visto che vi siete sistemati nei nostri piccoli spazi. Vi ringrazio di essere intervenuti così numerosi. Una buona sera a tutte e a tutti e tanti anche saluti da parte dell'assessore Tomasini. Questa sera non so se riuscirà a venire perché è una settimana un po' impegnativa questa, ecco, ricca di tante iniziative. Tra l'altro in contemporanea ce n'è una anche in biblioteca civica. E quindi siamo tutti in ballo, ecco, in questi giorni. Bene, saluto con grande piacere Bruna Maria Dal Lago Veneri e Franca Heller che sono tornate in questa biblioteca e questa sera presentano insieme il libro di Bruna Maria, Piedi, Zoccoli e Ruote, Zibaldone erratico dal Tirolo a Timbuktu. Dimmi perché ridi. No, dai, lo lascio dire. Perché a Trento, il giorno 22 del mese di febbraio, aveva tappezzato la città con il titolo Piedi, Zoccole e Ruote. Perché lei è sempre sull'attualità. Esatto, siamo sempre molto. Documentato, no? Che me la racconti così. C'era un certo interesse. Per quello avevo la gente così, ma non avevo capito perché. Ecco, noi siamo legati molto al territorio, no? E anche alla cronaca del territorio. No, dai, ringrazio veramente l'autrice e Franca Heller che ci accompagna nella moderazione. Vi auguro una piacevole serata e cedo subito la parola alle nostre due ospiti. Grazie mille. Grazie direttrice, grazie. Beh, io sono molto contenta di ritrovarmi con Bruna, che oltre ad essere una carissima amica, reputo anche una brava e interessante scrittrice. E mi piace presentarla perché ogni volta viene fuori qualcosa di nuovo, a parte le zoccole, ma c'è sempre qualcosa di interessante. Non so, noi ci prepariamo, non so, diciamo in linea di massima cosa dire, e poi lei riesce sempre a spiazzarmi. Io scommetto che lo farà anche questa volta, secondo me, perché c'è sempre qualcosa di legato alla sua curiosità, alla sua capacità di essere sempre sull'attuale, alla capacità di inventarsi delle cose, eccetera. Comunque, detto questo, poi diventerà una chiacchierata fra noi sì, tutti, certo. Spero. Detto questo, volevo leggervi questo libro. Ha una storia curiosa, proprio un lungo viaggio, è anche un po' travagliato, è la storia di un viaggio, ma è anche un viaggio del libro, nel senso che è uscito come inedito, è uscito in italiano. Poi è stato tradotto in tedesco ancora felicemente viaggia per i lidi stranieri, Folio Verlag, e per Folio Verlag, quindi in ambito tedesco, e è stato presentato 2 anni fa a un premio importante, il premio Gemmi di Caporiacco, che è il premio dell'Adige e delle due testate del dorso del Corriere, sia del Trentino che dell'Alto Adige, perché la proprietà è la stessa. E ha preso il primo premio come inedito, no? E se io vi leggo 2 righe di motivazione, voi capite già che siamo in medias res, cioè che ci dà la cifra della scrittura di Bruna. Allora, la metafora di tutta la scrittura di Bruna Maria Dal Lago Veneri è il viaggio, un viaggio circolare, come circolare è per l'appunto ogni tradizione popolare che la raccoglie e racconta, una specie di itinerario mitologico, le cui tappe sono accadimenti, tempi e spazi segnati sulla mappa di un microcosmo, spesso il suo, la sua terra delle montagne, ma non solo, colto nel corso delle sue mutazioni storiche, geografiche e passionali. Viaggiare non per arrivare, è questo il senso del suo errare errore, come lei stessa ama definire le sue affabulazioni, ma forse per tornare alle radici del mito. Ecco, vedete, tutta la scrittura di Bruna Maria ha questa specificità di questo viaggio circolare. Ne parlavamo con lei, avevamo nella sua cucina sul tavolo in mezzo a carte dove non so come faccia a mettere le mani, ma questo libro di Raymond Baudet a proposito della vita delle cose, perché c'è un'altra cosa secondo me che caratterizza la sua scrittura, e cioè questo viaggio, anche la scrittura voi sapete che è un viaggio, quindi la metafora viaggio si usa per la storia del viaggio e la storia della scrittura, è sempre un viaggio che può andare dal fuori al dentro, dal dentro al fuori, a seconda che uno voglia comunicare agli altri o voglia guardare dentro se stesso, eccetera. Ecco, questo suo viaggio, oltre ad essere un viaggio circolare, è anche sempre un viaggio fra le cose e le informazioni che lei ci dà delle cose, cioè è un continuo equilibrio fra la concretezza e l'astrazione, fra il fisico e l'astratto, cioè in definitiva fra il definibile e l'indefinibile. In che senso? Nel senso che lei dà, con la sua curiosità, con la sua attenzione alle cose, dà moltissimo spazio alle informazioni, quindi a cose molto concrete, a cose che ci insegna, che ci spiega anche con un rigore scientifico. E poi però, accanto ad esse, c'è sempre questo suo modo di trasformarle, raccontarle, affabularle in una maniera che deriva dalla fabulazione orale e che scivola nel mito, che ci riporta alle origini, a qualcosa che non è più indefinibile, ma è appunto l'indefinibile. Così è anche per questo libro. La cosa che la caratterizza, l'ho già detto, l'estrema curiosità, l'attenzione incredibile che lei mette in ogni cosa. Voi lo vedrete qui, poi nel caso mai leggeremo dei pezzi, ne parleremo, ma questo zibaldone erratico è pieno di notizie incredibili, no? Il viaggio, il primo veicolo, voi sapete cos'è il primo veicolo di questo viaggio? Il primo veicolo è la madre, me l'ha insegnato lei, io non ci ho mai pensato, perché è la madre che partorisce, quindi è il primo veicolo. E poi però le terre, allora la nostra terra di confine che fa da cerniera, cioè da apertura ma anche da chiusura, le vie dei commerci, si parlerà della via dell'Ambra piuttosto che di quella della Seta, di tutte le vie dei commerci, ma anche delle spedizioni militari, ma anche degli insediamenti, quindi queste terre come sono sedimentate e come si sono urbanizzate nel corso dei secoli, eccetera. Tutto questo però si lega a qualche cosa che queste terre e questi veicoli e questi movimenti e questo viaggio li lega tutti insieme, cioè alla Weltanschauung, cui ognuna di queste, alla grande visione del mondo, cui ognuna di queste cose è comunque legata. Vi leggo questa cosa di Remo Bodei per farvi capire come effettivamente questo equilibrio generi poi un miscuglio molto, molto simpatico e molto stimolante tra appunto il definito, il definibile e l'indefinibile. Allora, nelle cose si depositano idee, affetti e simboli di cui spesso non comprendiamo il senso. Più siamo in grado di recuperarlo e di integrarlo nel nostro orizzonte mentale ed emotivo, più il mondo si allarga e acquista profondità. La filosofia e l'arte ci indicano la via. Ecco perché io ho sempre delle grandissime difficoltà con lei a situare i suoi libri, no? Come bibliotecaria lo dico, perché da noi non ci sono molti esempi di questo modo di scrivere, penso a Magris, non so, ecco, è un modo di scrivere molto mitteleuropeo, molto poco italiano, però questo narrare di cose, di fatti e di eventi, ma narrarli, cioè improvvisamente, non improvvisamente, ma in contemporanea, saltare dalla notizia e dall'indagine sulla notizia, dall'approfondimento sulla notizia, no? Quindi dalla conoscenza che ti dà e quindi dal saggio, a quello che invece poi è narrazione, ti mette un po' a disagio, nel senso che non sai dove collocarlo, e però ti rende la lettura molto stimolante, ovviamente. Difatti io imparo molto quando leggo le sue cose, io glielo dico sempre. E allora ti chiedo, e così scusatemi la tiritera, ma arrivo al dunque. Allora, come riesci tu a conciliare questo genere di scrittura che ti riporta sempre alle origini? Poi spieghiamo meglio cosa significa viaggio circolare. Significa partire, conoscere e tornare sempre all'Urwelt, all'Urmensch, all'Urpflanz, chiamatela come volete, Goethiana memoria, insomma a qualche cosa che ci riporta al primordiale, all'arcaico, all'origine, forse al mito. Come? Allora invece che di risponderti, intanto sono emozionata perché lo sono sempre e poi se mi dici queste cose ecco ti do. Comunque tiro un po' il fiato e allora ce la faccio. Ecco, una delle cose sulla quale discutiamo sempre, io quando faccio i miei articoli, che tutte le settimane come un compito di brava scolaretta devo fare un articolo per il Corriere, ogni tanto, non sempre perché non sempre mi dà retta, le telefono quando sono terrorizzate, dico senti te lo leggo, dimmi qualcosa. E lei mi dice ma dove vuoi arrivare? E mi interrompe e non mi lascia fare il circo perché non sa dove voglio arrivare. Poi si stupisce che in fondo arrivo dove volevo arrivare. Ma visto che questo è più o meno il nostro rapporto e io le sono grata perché mi sgrida, mi corregge, me le fa tutte. Comunque ecco questo. Volevo dirvi, e lei dice che comincio con delle sorprese, comincio con una sorpresa oggi. Oggi è il 14 di marzo, cioè... 3, secondo la dizione inglese, 3, 14, è pi greco. Oggi è il giorno del pi greco, signori. Scusate, ma questo è il pi greco. Il numero pi greco, correttamente interpretato, contiene l'intera storia dell'umanità. Martin Gardner. Poi non è finita qui. La faccia di pi greco, scrive Bertrand Russell, in un suo racconto, era mascherata e si capiva che nessuno avrebbe potuto vederla e restar vivo, ma delle maschere usciva uno sguardo penetrante, inesorabile, freddo ed enigmatico. Poi Pascal. L'universo è un cerchio in cui il centro è ovunque, la circonferenza da nessuna parte, ma possiamo arrivare molto più su. Dante, Paradiso, 33, 133, 138... Qual è il geometra che tutto s'affigge per misurarlo cerchio e non ritrova pensando a quel principio onde l'indige? Tal era io a quella vista nuova, veder volea come si convenne, l'immago al cerchio e come vi si indova. Scusatemi, ecco così funziono io. Non so se è molto serio. Comunque questo numero che nasce semplicemente... Ah, una cosa molto interessante... Sempre a proposito di questo pi greco dei, si chiama pi greco dei oggi, eh? E dunque è stato l'esploratorio di San Francisco, il grande museo della scienza, che da alcuni anni, 5 anni in verità, il 14 marzo ha celebrato questo 3-14 pi greco. Allora, un numero che nasce semplicemente dal rapporto tra il perimetro della figura perfetta e il cerchio e il suo diametro, e che ritroviamo quindi nel disco del Sole e in quello della Luna, nei cerchi creati da un sasso lanciato in uno stagno e in mille altre situazioni che nulla hanno a che fare con i cerchi. Ma non è tutto qui. L'interpretazione, e poi chiudo questa storia perché mi piace troppo, tanto è l'anniversario, tanto è il compleanno di Einstein, giusto per dire, da una parte, anche quella. O poi, ancora più divertentemente, questo giorno, questa elaborazione del pi greco da un gruppo di scienziati è stato elaborato una forma, direi, musicale, che vi leggo, che è estremamente interessante, che è questa. Sembra rifletta una struttura a noi sconosciuta, interna al pi greco stesso, una melodia che riflette l'infinito e che sicuramente Spielberg, se l'avesse conosciuta, avrebbe usato come messaggio musicale dei terrestri nei suoi incontri ravvicinati del terzo tipo. Punto. Questo è il mio modo di muovermi. Scusate. Difatti io spesso e volentieri gli dico ma tu, ma da dove attingi tutte queste cose? Lì è un po' più sul vago, perché certe volte mi dice un po' strega, sapete, tira sempre fuori queste notizie dal cappello da strega, e mi dice ma io non, ma sì l'ho letto, lo so, ma non era... Poi dopo puntualmente si ritrova, si fa il lavoro ritroso e si ritrovano le fonti. Quasi mai me l'invento, quasi mai. Però sembra, io spesso sono lì che faccio l'avvocato del diavolo, no? Dico ma da dove viene sta roba, ma non è vero, non è così. E poi invece effettivamente c'è, perché è, cioè, sono tutte queste notizie, a me sembra sempre che la tua scrittura sia come un grande fiume che scorre abbastanza lento, no? E si ferma ai margini e tira su, non so, quella parte di limo che rimane delle anse, e i sassolini nascosti, e i piccoli arbusti, e tutto quanto arriva poi alla sua destinazione finale, cioè alla foce. Ecco, allora per te che cos'è questa foce? È un... cioè tu usi questi veicoli, e qui è proprio il caso di parlare di veicoli, io intendo il fatto, l'accaduto, l'oggetto, l'informazione, per ripercorrere una strada a ritroso che ti avvicini al mito in un senso quasi sacrale del termine, o piuttosto alle origini, cioè sicuramente in un tempo sacro, in un modo sacrale del termine. Sicuramente io, beh, insomma, a fondo il mio lavoro di tutti i giorni è quello di così di cercare nelle tradizioni, nei riti e nelle ritualità, nei riti di passaggio, in tutti i riti, di trovare tutto quanto. Rido perché arriva il mio piccolo nipote. Bene, scusate. Come dico, è proprio questo tentativo di adesso ho perso il filo, ma lo ritrovo, di arrivare attraverso questi riti di passaggio. Di ripercorrere la storia delle storie, la storia di tutte le storie. Ma questo, e tu l'hai detto prima, e mi sembra estremamente, estremamente vero, adesso questo è per me, adesso non mi paragonare a persone sotto i piedi dei quali mi sento strisciare, comunque non importa, ma voglio dire, io credo che questo dipenda veramente dal fatto di essere, non io in particolare, io anche, e molto, perché questa è la mia storia, però anche molti di noi, di essere frutto di una mescolanza abbastanza, siamo gente di frontiera, e questo essere gente di frontiera ti dà la insicurezza delle cose, perciò il desiderio di saperle fino in fondo, di saperle bene, di non saperle appresso a poco, perché appresso a poco è troppo poco, primo, e secondo luogo anche ti media moltissime cose, cioè ti vengono in mente cose che non riguardano la cultura nella quale tu lavori, scrivi, parli o quello che vuoi, ma riguardano altre culture, ti rimandano molto lontano, ti rimandano a sensazioni, a odori, a sapori, a cose che forse non sono neanche tue, ma sono una memoria, non adesso direi una memoria collettiva, è ridicola, memoria cellulare, boh, se volete, comunque ti rimandano a qualche cosa, come la memoria dell'acqua, della quale io sono affezionatissima, perché mi sembra che anche l'acqua contenga tutti questi odori, questi colori, queste sensazioni, questi passaggi. Ecco, questo tentativo proprio di arrivare a questo, io credo che sia questo in fondo quello che, non dico che mi distingue, per carità, ma quello che io cerco di fare, ed è questa anche la linea, come tu dici, questo scorrere, questa fluidità, questa linea di continuità con questo passaggio, che non è soltanto, è un passaggio culturale, senz'altro, fra molte culture, ma è anche un passaggio di storie diverse e anche di religioni diverse, perché credetemi, anche il fatto di abitare la terra delle montagne, questa terra delle montagne, è in fondo un enclave di anche di varie, non dico tendenze religiose perché è troppo, ma comunque è passato c'è stato prima un periodo che direi così pagano, se volete metterlo fra virgolette, di altre religioni, ma non solo, questo innestarsi poi nel cristianesimo e poi questa di nuovo correzione, guardate, scusate la parola, del cristianesimo attraverso il protestantesimo eccetera, fa parte della nostra cultura, questo siamo noi, io profondamente credo in questa cosa, questo tentativo di, per esempio, una piccolissima cosa, ci sono qui le mie sorelle della Croce Rossa, mi è venuto in mente, l'altro giorno facevo un discorso sulla croce, mi è venuto in mente che la croce a doppio braccio, la croce di Lorena, in definitiva che era la croce della peste, la croce del colera, è diventata la croce della TBC. Ecco, non mi dite che non ci sono dei passaggi anche qui. Ecco, per carità, non c'entra niente, vi dico, tutto quello che io dico non c'entra mai niente, però c'entra in qualche modo. Però c'entra, adesso me lo spieghi, perché io l'ho trovata su vicino agli omini di pietra della Sarentino, scusa. La croce di Lorena, perché no? Perché erano rituali anche di benedizione contro le malattie, perché era un luogo importante, sai, quello lì. Non andarci per niente, vacci preparata, ti prego. C'erano 3 metri di neve, passavo. No, scherzo a parte. No, volevo leggervi un pezzetto proprio per vedere come. Mi viene quasi rabbia, capito? Perché parte e poi si perde in mille rivoli e poi riesce a ritornare al fiume. E io questo qui dico, ma porca miseria, ma come fa? E però fa. Allora, qui per esempio, volevo leggere gli itinerari che percorrono la nostra terra, 130, raccontano una storia che è la storia dell'uomo, del suo bisogno di nutrirsi, di sopravvivere, di scambiarsi merci e linguaggi, la storia delle sue rappresentazioni, degli strumenti tecnici, dei commerci, delle ricchezze e delle miserie, in una parola delle avventure. Cioè già vedete come lei dà delle notazioni, però anche in una maniera molto, molto fluida, molto da narrazione, no? Le strade del mondo sono il palcoscenico sul quale si svolge un eterno spettacolo. Faticosi passaggi di gente che porta merci di qua e di là, da passi e montagne, da deserti e da mari, carovane di muli, di cavalli, di cammelli, colonne di carri, diligenze, eserciti in marcia, esploratori, popoli in fuga o in migrazione, colonne di autocarri, autotrasporti, treni, aerei, si sovrappongono e mutano come le quinte di un teatro. Seguiamo queste migrazioni e avremo le vie del commercio nel corso dei secoli. La nostra regione, non dimentichiamolo, si trova a snodo, a cerniera, fra il grande nord e il sud. Bolzano nasce con intenti mercantili, e questo da sempre. Proviamo a fare un passo indietro, molto indietro nel tempo, e ci troviamo a seguire sulle rotte verso il nord e verso il sud le carovane dei mercanti. Siamo al passo del Brennero, uno dei più frequentati passi dell'antichità, valico che mette e metteva in comunicazione le genti delle pianure padane con quelle dell'Europa centrale. Attraverso questo valico correva la più antica via commerciale, la via dell'Ambra. E poi, parlando della via dell'Ambra, arriviamo alle terre del nord, arriviamo in Germania e poi arriviamo a Venezia, perché poi da lì arrivava. Quindi vedete, è tutto un viaggio di andata e di ritorno. E poi parla dei viaggi eroici. Sì, viaggi, ma a proposito sempre dell'alma, sempre dell'Ambra, mi permetti di interrompere, visto che di Ambra oggi mi sono adornata, mi viene in mente anche un'altra cosa ancora. Mi viene in mente che naturalmente sull'Ambra ci sono anche molte storie. E dico, sull'Ambra un'antica leggenda racconta che è portata sulle spiagge non dai flutti marini, ma da un uccello, dalla stravagante nome di Ancangrispasqui. È un uccello di mare che si nutre esclusivamente di erbe aromatiche e di piccoli crostacei. I suoi escrementi sono profumati e si chiamano ambra grigia. Il vento e la tempesta portano lontani questi escrementi che galleggiano sull'acqua. I pesci, vedendoli trasparenti e pieni di piccole erbe e di molluschi, li credono commestibili e li mangiano, ma non potendoli digerire, li vomitano e a contatto con i loro stomaci diventano di un colore dorato. Cosicché di ambra ne esistono due qualità, quella degli uccelli, che è scura, e quella chiara, che è la scura passata attraverso lo stomaco di un pesce. Senti, mi parli invece, allora, poi ci sono i viaggi di sola andata, l'abbiamo detto, si parla anche dei viaggi di sola andata, citando anche la Genesi, eccetera, non so, la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre è chiaramente un viaggio di sola andata, ahimè, poveri loro. E poi però c'è un altro andare, lei dice un andare eroico, un viaggio che ha per scopo estendere la propria identità nello spazio e nel tempo. Non è un viaggio fatto alla chetichella, che nessuno ti veda, come la cacciata o l'esilio, è un viaggio pubblico, solenne, un viaggio che conferma l'identità di colui che parte e rende meraviglia la meta. È il viaggio eroico, è un viaggio, è un modo per rendersi noto al mondo, per acquistare riconoscimenti e meriti, eccetera. Però un viaggio di andata e ritorno è anche, a me sono piaciuti molto questi, perché anche io ho imparato, i viaggi dei pellegrinaggi. Sì, anche qui credo che sia molto, no, ma 147, no, qui è un, come posso dirvi, è un approccio a come si entrava o come si dovrebbe entrare praticamente in una chiesa. Allora, nelle chiese antiche praticamente c'è la prima parte, la porta dalla quale tu entri e che possiamo chiamarla la bocca oppure anche l'utero in qualche modo, dove si entra. Poi c'è un percorso ondulato che va in punti fissi, c'è il punto del Giordano, poi in mezzo alla chiesa c'è il punto del morto, sotto il quale non bisognerebbe mai mettere niente, se non i morti appunto, c'è una porta a sinistra che è la porta della Vergine, una porta a destra che è la porta del Cristo, poi c'è la cupola, eccetera. Cioè, e questo muoversi all'interno della Chiesa è già una circumnavigazione, ma non solo. Proprio nei pellegrinaggi c'era proprio questa idea di entrare ed uscire dalla Chiesa facendo queste specie di giri attorno al centro. Torniamo al centro e al pi greco, vedete che c'è sempre il pi greco al centro dappertutto, e voglio dire di fare questi giri, questa circumnavigazione che è proprio il senso in fondo di tutto quanto quello che è lo spirito del mondo, della vita, della storia, della narrazione, che è sì un andare intorno in questa maniera, ma che è forse non in senso di ritornare sui propri passi, forse anche una spirale, naturalmente cambia, però è anche la circolarità della tradizione popolare che ha tutti i ritorni, ogni volta primavera, ogni volta autunno, ogni volta inverno, e questo che non è solo questo, che è la circolarità del nascere e del morire e poi di essere di nuovo riassorbito, come in questo libretto che abbiamo fatto con la stessa casa editrice che si chiama appunto La finestra dell'anima, che parla appunto della morte, questo uscire dalla porta, dalla finestra dell'anima per essere, come si diceva nella tradizione ladina, per uscire dall'anima e tornare in questa essenza sottile che è l'aria dalla quale sarai dopo, in qualche modo, dipende da quello che uno crede, riciclato, ritornato, rimanere lì, tornare attraverso, questo è, dipende da quello in cui si crede, ci sono varie possibilità e varie credenze. Cioè questa circolarità che mi sembra estremamente importante. È la circolarità che probabilmente esprimeva Lucrezio nel De rerum natura o Calvino nelle sue lezioni americane. Certo, parla di circolarità, certo. Con tutto. Certo, che è anche in fondo. Si distrugge, vuol dire la stessa cosa, sì, in fondo, no? Sì, che è in definitiva anche il simbolo di questo, del serpente che si mangia la coda, dell'oroboro, che è appunto inizio e fine, cioè questo continuo rigenerarsi, speriamo almeno, visto le tragedie che ci sono in giro, che ci sia sempre un rigenerarsi delle cose e della natura. Sperando nella natura soprattutto, perché negli uomini ci crediamo ormai pochino. A proposito di, citavi le tragedie, non voglio parlare di tragedie, però della tua curiosità e dell'essere sempre sull'attualità, no? Sempre sulla notizia che poi dopo riesci a portare a te, cioè a farla ritornare anche indietro. Tu parli anche del viaggio nell'intelligenza artificiale. Ah sì, questo sì, sì, sì. E adesso non saprei trovarlo perché non sono abile a trovarmi, ma comunque non è importante. Vabbè, comunque lo stesso, lo troviamo. E la storia dell'intelligenza artificiale è una storia che naturalmente si riproduce, si ripercuote ogni volta. Si comincia, qui ho cominciato naturalmente con il golem, ma la trovo. Ecco, il significato che il primo automa, il golem, semina terrore. In verità anche la mitologia abbonda di automi. E qui faccio una piccola storia, come faccio sempre io, Efesto nell'Iliade, sorretto dalle ancelle, via via via via. E poi parlo dei fabbri e così via. Ma venendo proprio alle cose più moderne, veniamo a questi robot, queste nuove creature costruite, queste intelligenze artificiali costruite dalla mente dell'uomo. E qui c'è un piccolo fatto, tu dici che io torno sempre sul personale, purtroppo è un po' vero. 4 anni fa o qualcosa del genere sono stata chiamata Madonna di Campiglio ad una bellissima, lì dovevo solo fare 4 chiacchiere, non di più, c'era una sfida fra una donna giocatrice di scacchi e il computer, e un computer che giocava a scacchi. Il bello della faccenda era questa, che avevano scelto una donna giocatrice di scacchi per un motivo molto importante, che era questo, cioè un uomo, e qui onore all'intelligenza maschile, e non è un discorso per carità, un uomo con la sua loicità, eccetera, non poteva, secondo gli studiosi del momento, avere la possibilità, un uomo normale, un uomo giocatore, un uomo campione, un uomo che volete voi, non poteva avere la elasticità, la larghezza di metro di un computer che su ogni mossa ha tutta la possibilità del possibile, mentre l'uomo tutta la possibilità del possibile non ce l'ha. Hanno preso una donna perché? perché visto che le donne vanno fuori di matto ogni tanto, era proprio sullo scarto che c'era la possibilità di gioco. È andata così, è stato sullo scarto che ha vinto, non perché fosse più brava della macchina, manco per ridere, ma perché faceva delle mosse talmente assurde secondo la macchina, che ha finito con spiazzare la macchina. Ecco. Ma la cosa bella a proposito della macchina è anche questa. Si dice, l'uomo e la macchina sono messi in confronto in una zona che chiameremo neutra. Ci si chiede, potrà una macchina comporre una sinfonia o scrivere un sonetto? Sembra di sì. E ancora, questo è più difficile, potrà mai una macchina essere gentile, piena di risorse, bella, cordiale, avere iniziative, avere il senso dello humor, distinguere il bene dal male, commettere errori, innamorarsi, gustare le fragole con la panna, far sì che qualcuno si innamori di lei, imparare dalle esperienze, usare le parole in modo appropriato, fare qualcosa di veramente nuovo o di veramente stupido? Ecco, qui su questo veramente stupido hanno giocato in questa partita. Scusatemi, niente contro le macchine, intendiamoci bene. Ma niente contro le donne neanche. Ecco, ma proprio su questo scatto, ed è divertente questa cosa, perché in fondo è un po' vero, proprio è la famosa storia che trovo stupenda, è un piccolo racconto molto antico che racconta di Adamo ed Eva, che se ne vanno tronfi per il paradiso terrestre, tutti belli così, Adamo davanti, tutto bello, e Eva che li corre dietro. E Eva dice, fermati Adamo un momento, guarda lì, guarda che cos'è, guarda quella cosa bella lì per terra, è un sasso. Lui dice, un sasso. Poi vanno avanti e c'è una cosa bellissima, dice, guarda Adamo, un piccolo sole, guarda, meraviglioso, lo chiamiamo Primula. Lui dice, senti, dimmi perché Primula? Lui dice, perché no? Fine della storia. Questo era di quello di cui parlavo, dell'intelligenza. Trovo molto della donna in questo libro, trovo molto della donna, molto femminile, diciamo che è una scrittura femminile. Parlando di viaggio, a me... Tu sai dove voglio arrivare? Alla fine della pista, che è la parte che mi piace di più e che sempre mi commuove. Ma voglio dire, non so, in un qualche articolo che ho letto, qualcuno ti ha paragonato e dice Kerouac, il viaggio sulla strada. No, a me viene molto più in mente Chatwin rispetto a Kerouac, La via dei canti, perché c'è questo stesso, proprio l'orma lasciata sulla pista che finché non viene cancellata mantiene memoria dell'uomo che c'è passato. O mi viene in mente il Machado che dice camminante no hay camino, no? Cioè trovo che ci sia dell'affinità con, e difatti anche Chatwin, La via dei canti, bibliotecari lì dove lo mettono? In narrativa o in saggistica? Ecco, si è nascosto, hai visto che si è nascosto? Ecco, no, ascolta, a proposito di questo, arriviamo alla fine del nostro viaggio, cioè alla mitica Timbuktu, dove tutte le piste hanno fine. Già lì io vorrei sapere come ti è venuta in mente questa storia di Timbuktu. Avevi nominato anche la Thule prima. Allora, come ti vengono in mente queste cose? Partendo da una cosa in fondo molto, molto tecnica, come sono i piedi, i zoccoli e le ruote. Meno male che non ho fatto una gaffa. Voglio dire, questo zibaldone erratico dal Tirolo... Io sinceramente ho un'idea del Tirolo che, insomma, tutto potrei pensare del Tirolo, ma non accostarlo a Timbuktu, perché non mi sembra che abbia... Tu ci trovi il magico, io molto meno, ma insomma, dimmi. Allora, prima di tutto è un accostamento di tipo fonico, mi era venuto in mente. Mi è piaciuto il Tirolo. Tirolo e Timbuktu, mi piaceva così. Poi è un nome che mi è sempre piaciuto in una maniera particolare. Poi, anche così, non so, mi frullava sempre per la testa questo pezzo di Platone, che dice Socrate dichiara fare questo, se tutto si muove, se tutto muta, ogni risposta su qualsiasi cosa uno risponde è ugualmente giusta o ingiusta, sia che si dica la cosa sta così o la cosa non sta così. Bisogna che inventino un nuovo linguaggio coloro che professano questa dottrina. Perciò io dico una cosa sta così o non sta così, per me stava così, punto e basta. Non c'è nessun'altra spiegazione, mi andava bene così. E poi questo, come dicevo, il suono, questa parola, Timbuktu, e poi questa lontananza, ma poi anche questo strano sogno, e qui di nuovo viene fuori quel discorso di prima, quel discorso della multietnicità, della quale, per esempio, uno dei bellissimi libri usciti ultimamente, che è le cotonie di Istanbul, di Rumiz, che è stupendo, dove c'è proprio questo viaggio folle e straordinario attraverso mille culture, mille idee, mille personaggi, che passa, che va estremamente, è un poema epico sicuramente, che va molto lontano, ma qui anche attraverso sempre il mio lavoro di ricercatrice di tradizioni popolari e soprattutto di racconti popolari, il racconto popolare ha in sé una parte che forse è poco considerata da quelli che così si interessano di questa materia, che è un punto questo profumo d'Oriente, questo linguaggio antico, che forse è un linguaggio antico perché le più importanti dei racconti sono le Mille e una Notte, probabilmente per quello, io adesso non è che ho scoperto l'acqua calda, insomma, non è questo, ma la tradizione orale ha sempre questo rimando a questo mondo fantastico, a questo mondo lontano, a questo mondo diverso, dove ci sono deserti, dove ci sono, a parte che il deserto e il ghiacciaio in molti racconti è quasi paragonato, ed è una cosa estremamente interessante, questi luoghi di estrema solitudine, luoghi dove nascono le immagini, mica altro, questo si voleva dire. Ecco, in questo senso, appunto, e poi un'altra cosa ancora più importante, se voi pensate che nelle Dolomiti c'è questa memoria atavica di un mare indimenticabile, cioè vengono dal mare, sono queste rocce, questi atolli che in fondo hanno questa memoria lontanissima di mari, lontani mari che ci sono stati, le donne ladine che portano il corallo al collo, e questa è la tradizione in definitiva, no? Allora questo profumo d'Oriente per me, io nella mia pochezza l'ho situato in un luogo dove non sono mai stata e probabilmente non andrò mai, ma che è Timbuktu. Questo Timbuktu cantato da molti, cantato in maniera scientifica da molti, cioè è un luogo reale, non è un luogo dell'immaginario, ma anche in maniera poetica da altri. Lo stesso qui ho citato una piccola frase di Barrico, con due C, che è scritto sbagliato, pazienza, non amura Timbuktu perché da sempre pensano laggiù che la sua bellezza da sola possa fermare qualsiasi nemico, anche il tempo, anche la morte, la mutazione, la dissoluzione. A Timbuktu, quando è l'ora in cui alle donne piace cantare e amare i loro uomini, si scostano i veli dal volto e persino il sole si allontana, sconcertato dalla loro bellezza. A Timbuktu la giustizia si amministra sui crocicchi, lì, né da una parte né dall'altra, si può essere imparziali. Movimento, strategia cartesiana, dove il problema del senso è solo un problema di volontà. Ma chi è il soggetto del conoscere? E chi è il soggetto della scienza, figura della conoscenza, nella società moderna? Moto, mutamento, mutazione, capacità della memoria e della fantasia di rimettere in gioco anche la fine di ogni movimento, la morte. Ti ritroverò a Timbuktu, la fine delle mie piste? Amico mio, quando la notte difendo la mia veglia dagli assalti del sonno, invento la tua immagine. I tuoi occhi che mi guardano da lontane trasparenze riempiono la mia memoria incapace di oblio. Ti parlo. Ecco, ti dico in fondo, malgrado tutta questa notte che scivola a sorte di profilo dalla dolorosa stratificazione del giorno, malgrado le colpe e le paure che sfumano la tua immagine fra l'armadio e la parete, malgrado il tempo e le morte stagioni e altre cose che non so e che non voglio sapere, malgrado tutto insomma, io so che ci sei, poi dormo il vuoto del tempo. Grazie. Non so, chiedetemi, ditemi. No, questa è veramente, ecco, vedete come riesce a arrivare alla fine della pista e a recuperare un filo che partiva dai piedi, dal primo veicolo della madre, come c'è una linea continua che unisce se stessa al mondo, le cose del mondo, le lega fra loro, eccetera. Insomma, come Borges che dice che sulla carta geografica alla fine l'ultimo incontro è l'incontro con se stesso, no? Ecco. Sulla carta geografica traccia le strade che ha percorso, si accorge che sono quelle del suo volto, e così lei alla fine di questa pista incontra qualcuno. Dunque vedete, adesso è il suo compagno, può essere una coralità di incontri. Certo, sì. Può essere quello che dico io, cioè l'accezione del sacro che c'è comunque in ogni, anche nelle cose più, nelle notizie più curiose, c'è questo senso di più di sacro che di magia, forse, non lo so, perché nella tradizione popolare c'è molta sacralità sempre. Poi bisogna stare attenti a distinguere, no? Però a me quest'ultima parte mi commuove sempre, mi sembra così autentica, così sentita, no? Domande, prego. L'arrivo c'è, sì, in questo viaggio. Mi dispiace di non averlo già letto, adesso lo prenderò e poi ti dirò. Mi dirai. Però... mi dirai. Dimmi. C'è, sì, l'arrivo, sì, passo. C'è sempre un arrivo per una nuova partenza, ecco. No, ma anche questo del Tirolo è proprio scritto, è proprio bello, perché uno impara anche tante cose, cioè c'è anche una documentazione che è frutto di grandi lavori, secondo me, perché insomma... Ma sì, perché mi stufo e allora devo pure impararlo. Sono molto contenta perché c'è tanta gente alla quale voglio molto bene questa sera. Se vuoi leggere forse ancora qualcosa, perché già sì. Allora vi leggo quello buffo, dai, quello buffo. Facciamo le cose ridicole adesso, basta con le tragedie. Quello che lei raccontava prima è un po' meno così epico e grazioso. Dunque, qui comincia così questo libro, comincia col corpo. Corpo, dal latino corpus corporis. Ah, un'altra delle mie passioni, follie, è quella di cercare l'etimologia delle cose. Io non posso vivere senza arrivare a capire cosa vuol dire una parola. E questo di nuovo è lo stesso discorso, perché io ho bisogno di tradurmi. Beh, questo è il motivo. Allora, se traducendo mi sto in piedi, allora vuol dire che va, se no butto via tutto. Ecco. Allora, corpo dal latino corpus corporis, sostanza, materia, in qualsiasi stato sia, solido, liquido, gassoso. Corpo è ciò che occupa uno spazio aggregato che possiede le tre dimensioni, lunghezza, larghezza, profondità. Unito ad una miriade di specificazioni abbiamo un corpo umano, arboreo, celeste, di guardia, del delitto, diplomatico e chi più ne ha ne metta. Certo è del corpo organico, sottospecie umano, che voglio parlare. Qualsiasi discorso sul corpo incontra un ostacolo che deriva dalla stessa natura del linguaggio, che definisce una molteplicità o forse una fluttuanza, qui di nuovo c'è questo elemento fluttuale, difficile, me ne rendo conto. Il corpo, veicolo di mezzi di significato, si presenta come una struttura che assolve tutti i sistemi di funzioni inerenti ai diversi campi dell'attività dell'uomo, collocato nello spazio-tempo. Il corpo è al centro degli sforzi dell'uomo per comprendere il mondo e l'idea di sforzo suggerisce ed innesta una tensione, un movimento. Ma poi vado a quello che vi volevo dire, ma qui veniamo al taglio, ma qui veniamo ad una sorpresa, perché parlavo a moto, movimento, energia, veicolo, mezzo di mobilitazione, ecco il crescendo di significati, tutti mobili e fluttuanti. Ma qui veniamo ad una sorpresa, il primo veicolo dell'uomo, il suo primo mezzo di mobilitazione fu ed è la donna. Ciò non soltanto riguarda l'atto sessuale alla nascita, ma ripetendo liberamente una frase di Samuel Butler, si potrebbe dire che la donna è il mezzo che l'uomo ha scoperto per potersi eternare. in questo senso, la donna fu anche il primo mezzo di trasporto, il secondo fu la cavalcatura, l'unione diseguale di due corpi che insieme si mettono per via. Nella storia dell'addomesticamento la donna venne per prima. Nella società pastorale e quelle patriarcali, dalle primitive scene di caccia che condussero alla società organizzate alla guerra, non a caso l'uomo si dette alla caccia della donna prima che alla caccia degli animali. So. Grazie. Sono qua. Basta, va là, basta che si siete stufiorbi, no? Il signore forse vuole chiedere. Ah, scusi. No, devo prenderlo, quindi se non lo leggo non posso. Questo è un viaggio metaforico. Certo. Dove arrivo a Timbuktu con la qualità mitica dove arrivavo le carovane. Certo. Ma non è solo un viaggio. Certo. Sì, no, è lì, sicuramente è lì, certo, e lo descrivo anche, perché ci sono anche dei fior di trattati scientifici che descrivono Timbuktu. Cioè, non è metaforico nel senso che non c'è andata, come le parti che viaggiava, però... L'arrivo dell'uomo Simoigola, ma lei ha fatto un libro importante, no? Non mi ricordo dove l'ho trovato, però è stato molto di conforto. Ah, questo sì. Questo è l'ultimo libro dei miei editori, sì. Dove l'ho trovato? Dappertutto, perché lo trovo dappertutto, è regalato. È della provincia, sì. È molto importante. Questo libro qua non c'è attinenza, no? Ma una domanda, in qualche punto lei, oppure, visto che è molto, come dire, approfondita, c'è una mezza risposta. Cosa succede dopo? Allora aspetti una cosa, io sono stata chiamata qui questa sera come non in una delle mie possibili incarnazioni, no, aspetti che le dico, non sono stata chiamata qui come una parte che ho, allora quella di Maga Strega non me l'hanno chiesta stavolta, perciò non glielo posso dire, però io penso sicuramente a questa, tanto in quel discorso su questo libretto è proprio l'importanza della coralità di questa antica tradizione che è l'accompagnamento, la coralità, questo vivere insieme che fa sopportare i due momenti più tragici e più importanti di quello che si chiama vita, che sono la nascita e la morte. Anche la nascita, perché la nascita è un momento importantissimo, perché è un momento di grande terrore. Io racconto, sempre se lei l'ha visto in questo libretto, un'esperienza di un mio piccolo nipote, il quale mi dice: oh, ma si fa più fatica a nascere o a morire? E io non so cosa rispondergli. E lui mi risponde, lui mi chiede, mi dice: no, guarda, si fa sicuramente più fatica a nascere, perché dal bel caldo del corpo della tua mamma, lì tranquillo e beato, esci in un mondo di odori, di rumori, un mondo, è per questo, dice lui, Moritz, non è questo il nipote, è l'altro, è per questo che i bambini piangono quando nascono. Questa è stata un'osservazione di un bambino che allora aveva 7 anni. Ed è un'espressione, ecco, e sono sicuramente tutti e due, questo io credo che il desiderio mio di questo libretto è stato proprio quello di dare questa coralità di accompagnamento, ma anche questa fiducia nel fatto che questi due momenti importantissimi, nascita e morte, facciano parte di un circo, di questo discorso della circolarità, che forse non è soltanto un cerchio, ma forse è una spirale, e una spirale che può, e qui a seconda delle credenze, delle possibilità, che può essere una rinascita, una possibilità di ritorno, ma comunque una costante, e questo lo dice anche la Chiesa cristiana cattolica, una costante presenza di quelli che ci sono e che si vedono, e di quelli che non ci sono, ma che comunque ci sono lo stesso. Che non si vedono, ma che ci sono lo stesso. Io trovo questo, che la reincarnazione sia una dottrina estremamente confortante. Anche sì, dipende in che cosa. vedi che te l'ho letto del Nane. Non serve però, perché tanto uno non sa cosa era prima, cosa serve. Ecco, questo è il punto, bisognerebbe potersi ricordare, ecco, questo non lo so. Però ognuno di noi intende, guardi, anche qui c'è un altro discorso ancora. Quando parlavo della memoria dell'acqua, c'è una memoria cellulare, c'è una memoria che non credo che sia la propria memoria. Io credo che come si trasmette, quando mi trasmettono dei caratteri somatici particolari, si trasmette anche una certa, è un'idea mia, forse una follia, per carità, si trasmette una memoria genetica. La scienza lo dice, perché la possibilità di ammalarsi in determinate malattie, cioè la predisposizione, è una memoria genetica. C'è niente da dire, però è bella. Ma c'è chi spiega così anche il fenomeno dei bambini prodigio? Ma sì, sono tutti, i bambini sono tutti prodigio. Ma sono un prodigio del fatto che nascono, perciò è già un prodigio. Ma tutti compongono una sinfonia a 7 anni. Beh, insomma. Forse sì, forse non gliela facciamo tirare fuori, forse li ammazziamo noi con tutte le cretinate che gli insegniamo. Bene. Tanke. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Veramente grazie a voi.